Buongiorno a tutte e tutti, buon pomeriggio. Allora, intanto grazie come sempre dei tuoi contributi che sono fondamentali qui per leggere situazioni che intanto si sommano e comunque sono di difficilissima lettura. Io ho fatto un po' una breve introduzione perché comunque negli ultimi 10 giorni anche qui sono arrivate notizie di cose orrende che succedono in Messico, e quindi ho fatto un po' riassunto di quello di cui andremo a parlare. Allora, chiaramente tutto quello di cui parleremo, metteremo da una parte la visita del Papa, che io tirerei fuori alla fine per collocarla in mezzo a tutto ciò di cui parleremo, no? È un po' la cosa secondaria che ci interessa capire, anche perché tante cose le possiamo immaginare quanta un po' falsità si porta dietro. Allora, io quello che ti vorrei chiedere è, intanto qui è arrivata la notizia del carcere, di quello che è successo nel carcere di Topo Chico, che viene chiamata la rivolta, e poi viene spiegato che poi non è esattamente una rivolta come succede nelle carceri, no? Allora, se ci vuoi dare tu un po' sì, un racconto di quello che è successo. È un massacro. Mi sentite bene, vero? No? Sì, un po' piano, ma adesso io in qualche modo ti alzo. Ok, mi sentite adesso? Sì, va benissimo. Perfetto. Allora, è un massacro fondamentalmente. Infatti ci tenevamo anche a diffondere qualche informazione su quello che è successo, perché è vero che magari alla fine, insomma, della corrispondenza parleremo della visita del Papa, ma è vero che tutto si inserisce anche in questo contesto della visita, no? Anche una sorta di escalation di violenza nell'ultimo mese soprattutto. Il carcere Topo Chico, con tutto quello che è successo il 12 di febbraio. Topo Chico a Monterrey, stato di Nuovo León, stato che comunque problematico per quanto riguarda la violenza del narco, anzi chiamiamola così, il narcostato, mettiamola appunto in questi termini, appunto una rivolta, supposta rivolta, comunque così definita, 49 morti accertati per quanto riguarda le autorità ufficiali, e questa diciamo la versione ufficiale che è arrivata dai media, dal governo e dagli organi di stampa di tutto il mondo. Ora, che cosa è successo? La giustificazione del massacro, la giustificazione diciamo dell'intervento delle forze speciali federali e della marina anche, quindi parliamo anche di intervento militare all'interno di questo carcere enorme, parliamo di un carcere che contiene migliaia di persone e che contiene probabilmente, secondo le stime, almeno 2.000 persone in più rispetto alla capienza possibile di questo megacarcere, femminile e maschile. E appunto nel 2 febbraio c'è questo intervento da parte di forze speciali federali, quindi di polizia e forze militari all'interno del carcere per sedare questa rivolta. Allora, secondo l'autorità, il carcere era diciamo in mano a due fazioni, due clan rivali, di cui uno era di Zetas. All'inizio si è parlato di un tentativo di fuga, quindi si è parlato di un tentativo di fuga, questa evidenza giustificata da un tentativo di fuga da un incendio. Poi si è parlato proprio di un confronto armato fra le due fazioni. Fatto sta che sono arrivate notizie anche in Italia, leggevamo appunto qua dal Messico di articoli su Repubblica, su altri giornali, in cui parlavano all'inizio di più di 49 morti, anche più di 50, nelle quali erano comprese anche diverse persone non appartenenti alla popolazione carceraria, quindi anche funzionari e polizia. Ecco, questo non è vero, questa è una notizia falsa, perché i 49 morti, che comunque il numero sembra sia abbastanza certo in questo momento, ma rimangono ancora dei dubbi, sono tutti appartenenti alla popolazione carceraria, non c'è nessuno non appartenente agli interni del carcere. E questo è già un dato, quindi già un dato anche di nascondere qualcosa, perché l'intervento è stato forte, addirittura sembra che un'area del carcere ci sono le immagini alla quale si è stato appiccato il fuoco, chissà se probabilmente il fuoco è stato appiccato dalle stesse autorità che sono entrate a sedare questa fra virgolette rivolta. Fatto sta che, mi sentite sempre? Sì, ti sentiamo bene, siamo qua. ok. Poi bloccatemi ogni tanto perché perché la spiegazione questi sono i fatti molto dubbi e molto poco chiari quella notte. Fatto sta che subito dalle prime ore dell'alba si si consentano fuori dal carcere quasi 1 miliardo di persone, appunto, soprattutto familiari di detenuti e detenute all'interno del carcere, per capire quello che era stato dei loro cari. Si crea una situazione di tensione sempre crescente al di fuori del carcere, perché non arrivavano notizie su quello che succedeva. L'unica notizia che arrivava era di una serie di traslados, come si dice qua, di spostamenti forzati di detenuti in carcere lontanissime. Quindi parliamo di Monterrey, quindi diciamo della parte nord del Messico, nord-ovest, si parlava di carceri nel sud, in Yucatan, in Chiapas, dove questi detenuti venivano spostati di corsa. Ora, il legittimo sospetto da parte di tante persone che erano là fuori, come anche di organismi ONG, collettivi appartenenti ai movimenti sociali che appunto si erano raggruppati là fuori, era quello che probabilmente il numero dei morti fosse maggiore e quindi si tendesse anche a nascondere questo tipo di evidenza, probabilmente perché l'intervento delle forze speciali, delle forze dell'apparato autoritario dello Stato era sfuggito di mano. La prima cosa che si è detta, il primo paragone purtroppo da Mario che si è fatto è Carandiru, il carcere, non so se vi ricordate la storia successa molti anni fa nel carcere di Carandiru in Brasile, no? Quando appunto entrano le forze speciali provocando centinaia di morti. Ecco, subito si è pensato purtroppo a quel tipo di dramma. Poi subito dopo è uscita fuori anche un'altra cosa, è uscito fuori un video del governo in cui si rivede questa parliamo di 3 giorni dopo, questa popolazione del carcere festante, dicendo che un video finto ovviamente, in cui c'era un'intervista soprattutto a detenute, in cui si parlava appunto finalmente della liberazione del carcere, che era in mano comunque ai cartelli del narcotraffico, era in mano comunque alla dittatura interna da parte di questi clan, e finalmente l'intervento delle forze speciali riusciva a rimettere ordine all'interno del carcere, anche a migliorare le condizioni della popolazione carceraria. Ovviamente si nota appunto in questo video del governo, come un classico degli ultimi governi cristi messicani, una falsità totale, cioè sono video completamente montati a arte, no? Però il sospetto cresce sempre di più. C'è un'altra storia legata a questo carcere. Da anni è in costruzione il penale di Mina, un penale fuori. Il carcere Topo Chico è all'interno della città di Monterrey. In Monterrey stanno costruendo questo mega penale di massima sicurezza, mega carcere di massima sicurezza, un seferezo come viene chiamato qua. Questo carcere di massima sicurezza, i lavori sono bloccati da anni e attendono la giustificazione probabilmente per essere proseguiti. Insomma, i lavori iniziano nel 2012, stiamo parlando sia di una speculazione che di un mega carcere di controllo enorme, nel quale appunto probabilmente l'aspirazione è quella di spostare i detenuti di Topo Chico e nonché di accogliere altri detenuti e detenute da altre parti del Messico. Un progetto speculatorio portato avanti appunto dal governatore dello Stato di Nuovo León, Javier Rodríguez Calderón, detto il Bronco, è un progetto che comunque va avanti a singhiozzo, e probabilmente questa azione, questo massacro probabilmente riesce a dare un impulso decisivo a questo progetto. Creerà il caso per cui appunto si accelererà? Sì, sicuramente si accelererà questo, e si accelererà anche c'è un'analisi che abbiamo fatto qua con altri compagni e compagne messicane, che comunque queste prove di forza non servono solo all'interno di un carcere, ma servono all'interno di un intero sistema penitenziario nazionale, no? E anche fuori sono prove di forza che lo Stato dà, lo stesso governatore dà all'interno del pandemia, per giustificare controllo sociale, repressione, alle volte anche per giustificare quella famosa commedia della guerra al narco che va avanti da anni, ma che ben conosciamo, insomma, attraverso Radio Onda Rossa abbiamo parlato più volte, no? Della collusione fra Stato e narcos. Queste sono le considerazioni che facevamo, appunto, abbiamo fatto in questi giorni su Topo Chico, su questo massacro all'interno del carcere, un carcere poi molto strano, anche ingestibile da parte delle autorità, perché viene giustificato da parte con lo scontro fra due fazioni completamente differenti, molto pericolose, perché parliamo anche di capi degli Zetas, no? All'interno di questo carcere, a quel punto viene sottolineata ancora di più l'incapacità del governo nemmeno di gestire alcune situazioni, di gestirle totalmente con le cause. Si parla addirittura in alcune interviste fuori dal calcio, una famiglia parlava della propria figlia reclusa dentro per utilizzo di moneta falsa, un reato assolutamente ridicolo, da 2 anni di detenzione. Appunto questa ragazza viveva una situazione di detenzione assieme probabilmente ai capi dello Zetas, quindi immaginate questo caos creato a arte per poi esplodere e giustificare l'intervento delle forze speciali e della Marina, addirittura ovviamente un massacro annunciato. Di questo insomma si parla. Sì, tra l'altro appunto una guerra trasversale al popolo messicano, parlando così, passando di stato in stato, per esempio anche lo stato di Veracruz, qui sono arrivate notizie appunto di adesso, per lasciare dopo Chico, visto che abbiamo tutta una serie di questioni da affrontare, che però penso che poi hanno come titolo comune veramente questa guerra al popolo messicano, che poi viene fatta da diversi attori, che siano il governo, che siano i narcotrafficanti, che si fanno appunto i narcos, che si fanno la guerra nei diversi stati, i cartelli, tornano queste cose. Lo stato di Veracruz era uno stato tranquillissimo, anche questo, che è assolutamente ridotto al terrore, direi, no? Addirittura gente che è stata prelevata a casa. Esatto, e adesso dopo tanta gente che sparisce cominciano ad arrivare le notizie dei corpi che si ritrovano. Che sta succedendo anche a Veracruz? Ad esempio passiamo appunto da Rodríguez Calderón, governatore di Nuevo León, passiamo a Javier Duarte, appunto sempre triste, governatore di Veracruz, nel quale appunto tristemente l'avevamo già ricordato per radio, no? Appunto con il massacro dei 4 compagni e un compagno a Città del Messico, ma è impegnato a livello di medici indipendenti, quindi di formazione indipendente a Veracruz, contro appunto l'opposizione sociale al dittatore governatore Trista Duarte, no? E uccisi mesi fa. È della settimana scorsa, di 10 giorni fa, la notizia di un'altra giornalista uccisa, Anabel Flores Salazara, prelevata dalla sua casa a Veracruz e fatto ritrovare il cadavere a Chipalzingo, accanto a Yotzinapa, caso. Un triste filo rosso, appunto, nel quale uccisione della quale parliamo del diciassettesimo giornalista ucciso nello stato di Veracruz. Quest'anno è ufficiale, giusto così, per parafrasare alcuni sondaggi, tristi sondaggi che girano in tutto il mondo, che il Messico sia lo stato più pericoloso al mondo per quanto riguarda l'attività giornalistica. L'anno scorso era il secondo dopo l'Iraq, solo che in Iraq c'era la guerra, e quest'anno diventa il primo. E Veracruz, lo stato di Veracruz, per quanto riguarda questa questione, rimane l'emblema, proprio appunto l'emblema dell'attacco diretto all'informazione, non solo indipendente, non parliamo solo di informazione indipendente, tant'è vero che mesi fa venne ucciso anche un giornalista di Proceso, che comunque è un periodico abbastanza famoso, sicuramente critico nei confronti del governo, però nemmeno facente parte dei media indipendenti, insomma l'informazione in generale che potrebbe essere critica nei confronti degli apparati di Stato. E parallelamente volevo fare un accenno proprio breve a quello che sta succedendo a Yotzinapa, perché comunque per continuare appunto il racconto che abbiamo fatto più di una volta per radio, anche ospitando la delegazione che era arrivata ad aprile di quest'anno, perché tutto questo si inserisce appunto nel contesto di quello che è successo in questi mesi in Messico. La Commissione Permanente dei Diritti Umani ha finalmente pubblicato il rapporto 2 settimane fa sulla questione di Yotzinapa e soprattutto sulla versione del governo per quanto riguarda i fatti di Cociula, ovvero il presunto incenerimento e seppellimento dei ragazzi, dei 43 ragazzi del Basurero nella discarica di Cociula vicino a Chipalzingo. Totalmente la Commissione indipendente dei diritti umani ha escluso questa ipotesi e ha dichiarato falsa la versione del governo. Questo è il rapporto ufficiale che è uscito la settimana scorsa. una settimana prima appunto della visita del Papa. E, proprio ieri ci sono stati, è un momento molto importante, che sono stati i funerali di Julio César Mondragón Frontes, che è uno dei ragazzi uccisi nell'assalto, anzi trovato morto il giorno dopo. E, è stato fatto adesso il funerale proprio perché ci sono stati un anno di studi e autopsie per quanto riguarda tutto il tema investigativo di quella tragica notte di Iguala. E da queste 43 di Yotsinapa diventa più, sempre più in quell'attualità, come sempre più il movimento è il movimento dei familiari, dei ragazzi, e adesso magari ne parleremo in relazione a questa questione del Papa, perché è importante anche contestualizzarla in questo senso, visto che si è aperto un nuovo dibattito su 33 in relazione alla visita del Papa. Pronto? Sì, eccomi. Sì, infatti, tra l'altro, appunto, qua ci sta addirittura una televisione che segue quasi 24 ore su 24 questa visita. È abbastanza così inquietante vederlo, perché appunto noi che appunto siamo abituati a parlare del Messico, poi così cercando di dare una lettura a quello che accade, lì c'è come una patina di nulla, c'è la parola speranza che ricorre, no? La speranza è la soluzione a tutti i mali, quindi è abbastanza inquietante. Insomma, questo fa, secondo me, molto necessario poi continuare a parlare, perché appunto non a caso io credo che tutta una serie di notizie del Messico siano anche qui arrivate, cioè, no, ci sono quei momenti in cui anche qui si aprono gli occhi sul Messico, no? Allora, per fortuna c'è chi scrive, appunto, chi ha ricordato. Oggi leggevo anche che, per esempio, con l'arrivo del Papa Ciudad Juárez sui pali che sono nelle strade sono dipinti di rosa con una croce nera disegnata dai familiari delle donne che spariscono. E negli ultimi 2 giorni sono state tutti ridipinti, la città è stata così rimessa in ordine per la visita del Papa. Insomma, ecco, sì, si mette questa patina di silenzio, no? La parola speranza mette una coltre, non so come dire. Tra l'altro, appunto, c'era. Guarda, a mio avviso molto personale, questa visita apre delle contraddizioni forti, a parte ovviamente l'ipocrisia, cioè l'ipocrisia totale della visita, apre comunque anche la possibilità per aprire delle contraddizioni forti all'interno del Messico e anche all'interno della diffusione a livello di comunicazione internazionale della visita. Si pensava che poi fondamentalmente la visita di Bergoglio fosse molto più provocatoria di quello che poi è stata. Comunque lì il tentativo iniziale era quello di incontrare il Messico dal basso, secondo lui, cioè secondo le comunicazioni vaticane prima della visita sarebbe stato questo il tentativo. Ovviamente non lo è stato, perché non è di certo il compito della gerarchia vaticana quella di aprire dibattiti e contraddizioni all'interno di uno Stato che è uno Stato a maggioranza cattolica, quindi insomma non è stato questo il caso. Ci sono state delle provocazioni e comunque degli eventi che sono stati anche vissuti per alcuni qui di portata storica. Ad esempio, noi ormai siamo a San Cristobal, il Papa ha visitato San Cristobal, non vi dico il processo di militarizzazione di un paese così piccolo, di 200.000 abitanti come San Cristobal, per contenere la visita del Papa, perché immaginatevi, noi ci siamo caricati in casa praticamente. Però l'intento della visita era quello di visitare la tomba di Samuel Ruiz, vescovo di San Cristobal, molto vicino ai zapatisti e anche uno dei grandi protagonisti del processo di pace dal 94 in poi. Il tentativo è stato anche di riabilitare questa figura molto critica, molto criticata dalla Chiesa istituzionale, un'operazione simile a quella che il Papa Francesco Bergoglio aveva già effettuato nei confronti di Monsignor Romero, prete vicino ai guerriglieri, vescovo vicino ai guerriglieri in Salvador. Un'operazione molto simile, l'altra operazione era quella di incontrare le comunità indigene, il Tzotzil, Seltal, Chol, il Tocolabal, all'interno di un incontro pubblico, come per chiedere scusa di 500, di 600 anni di colonizzazione. Risultato una pantomima evidente, una commedia anche triste, diciamo anche imbarazzante, addirittura quasi ci sono state scene nelle quali appunto la popolazione messicana di discendenza ispanica, mettiamola così per spiegarla un po' a breve termine, ha chiesto scusa pubblicamente dando la mano agli indigeni che erano nella stessa piazza. Insomma, parliamo di commedia e di facciata, niente di più niente di più consistente di questo. Sì, tra l'altro io ero a San Cristobal, guarda, io ero a San Cristobal l'anno della visita di Giovanni Paolo II in Messico, guarda caso, mi ricordo che ero impressionata da, e stiamo parlando di un altro Messico, chiaramente, perché era un altro Messico, non era sicuramente la situazione violenta di oggi, e io mi ricordo che era impressionante quanto non si poteva parlare, per esempio io da italiana, raccontare il nostro astio, diciamo, per questo mostro del Papa, insomma, per come ci vivevamo nella religione qua, non era semplice, e spesso c'è stato detto vabbè, però casomai qui adesso non raccontatelo a tutti, e c'era una militarizzazione che faceva veramente impressione, non voglio pensare adesso, insomma, sì, sì, in una situazione così. Va bene, io non so, se tu dimmi, volevo finire un attimo sul se posso finire questa cosa, perché si sono aperte anche le discussioni abbastanza particolari. Ad esempio, c'è comunque una parte cristiana, cattolica di base, che è stata anche parte e continua a essere parte del mondo dell'autonomia zapatista indigena, che non ha accolto sicuramente con l'entusiasmo della devozione assoluta di questa visita, ma che ha neanche partecipato come popolazione e come comunità alla visita in Chiapas. E quindi anche con aspettando, dicendo come il Papa viene qua, vediamo pure che dice, perché noi avremo anche delle cose da dire, una delle quali ad esempio quella che sarà sottolineata, diciamo, dalle organizzazioni come la Sabe Casateale o altre organizzazioni, Fraiba, altre organizzazioni vicine al cristiano, però comunque facente parte dei movimenti sociali, è quella che il Papa è venuto lo stesso giorno dell'anniversario dei 20 anni degli accordi di Sant'Andrea. Gli accordi di San Andresco sono gli accordi che hanno, diciamo, concluso il processo di pacificazione, processo di pace fra lo Stato messicano e la ZLN, accordi mai ratificati dal governo e mai compiuti, quindi appunto aprivano questo tipo di contraddizione. L'altra contraddizione che volevo sottolineare è il fatto che il Papa, quella che appunto anche sui giornali è stato molto criticato sui giornali, questo è il fatto di dire il Papa parla dei deboli, parla degli ultimi, e parla delle vittime, però va in giro accompagnato dai carnefici. Poi alla fine fondamentalmente questo è il concetto di base, no? Il Papa qua ha parlato fondamentalmente del narco, ha parlato dei giovani, ha parlato delle donne, del femminicidio in Ciudad Juárez, però non ha mai parlato dei colpevoli, non ha mai parlato delle collusioni ovviamente fra il governo e i narco, non ha mai parlato di questo tipo di contraddizioni evidenti all'interno del Messico odierno, no? E questa è la prima critica che viene fatta. Un'altra critica che viene proprio anche dall'interno. È successo un episodio interessante, diciamo, mettiamola così, anche quasi strano, no? All'interno dello stadio di Morelia, Michoacán, parliamo della visita quindi di due giorni fa. Michoacán, altro stato sicuramente problematico per il tema della violenza e del narco, nel quale appunto in uno stadio totalmente gremito di persone per la visita del Papa, una serie di preti, parliamo preti giovani, preti e suore, era una curva praticamente, una curva all'interno di questo stadio gremita di giovani preti, giovani suore, seminaristi, alcuni così, ha iniziato a intonare la conta fino a 43, che sappiamo che in Messico, diciamo, è un po' il simbolo della lotta per il ritorno a casa dei ragazzi da Ayotzinapa, quindi hanno iniziato a cantare questi numeri fino a 43 e lo Stato si è riempito di queste voci. C'è un video che gira abbastanza interessante, proprio perché si vede questo stadio intero che conta fino a 43 in attesa della visita del Papa, e tutta la parte centrale, quella del prato di gioco, piena di polizia, gerarchie ecclesiastiche, così, che parlano al cellulare preoccupati e imbarazzati per quello che sta succedendo. Quindi probabilmente c'è anche da parte del mondo, che ne so, cattolico di base, anche comunque una richiesta quasi spontanea di dire: se il Papa viene qua, che si interessi di queste cose, che parli di queste cose. Ovviamente non l'ha fatto. Oggi è il giorno della visita a Ciudad Juárez, nella quale appunto, e questo è importante sottolinearlo perché leggevo anche sui quotidiani italiani, venivano scritte insomma diverse menzogne, non ci sarà l'incontro con i familiari dei 43 da Ayotzinapa, non saranno presenti alla celebrazione, non saranno presenti durante la visita del Papa, proprio perché loro hanno risposto ufficialmente che non sarebbero mai venuti come invitati a una messa, ma volevano incontrare il Papa, hanno richiesto di incontrare il Papa per spiegargli la situazione. anche per avere una diffusione internazionale del loro caso. Il Papa ovviamente si è rifiutato di fare questo, e anzi il rappresentante vaticano ha annunciato la presenza sia dei familiari dei 43 di Yersinapa come di altre organizzazioni di vittime di disapparizione forzata all'interno delle celebrazioni, quando poi questo non è vero. Questa è la contraddizione più forte che si è vissuta qua. Un intero popolo ha chiesto, anche a ragione probabilmente, ha chiesto all'interno di un evento politico così grande di sottolineare la contraddizione, la collusione fra il narco e lo Stato. E il Papa, ovviamente, come era ovvio che facesse, accompagnato dal presidente Peña Nieto, delle altre gerarchie ecclesiastiche, del potere politico nelle sue varie forme qua, non ha solamente accennato alla questione. Quindi si accenna alle vittime, ma i veri alleati sono i carnefici. Bene, non so come ringraziarti, Sante. Tu sei proprio la nostra fonte inesauribile. No, a nome anche degli altri compagni che stanno qua, ne ringraziamo come sempre Radio Onda Te, Radio Onda Rossa, insomma, per lo spazio che ci date, per poter magari cercare anche di contestualizzare quello che succede in Messico, anche perché continuamente, come dicevi giustamente tu prima, in Italia arrivano tante notizie. Ovviamente abbiamo tralasciato la telenovela del Chapo Guzman e tutta la cosa. No, vabbè, basta. Facciamo cadere un po' in un velo pietoso. E quindi, però per noi era importante comunque, anche soprattutto in un momento di visibilità internazionale come è stato questo della visita del Bergoglio in Messico, sottolineare quali sono state le contraddizioni vissute qui in Messico dai movimenti e dalla popolazione tutta. Vi terremo aggiornati. Sì, tra l'altro, insomma, vi mando un abbraccio forte. Anch'io abbraccio a tutti e tutte, e a presto. Io, guarda, stasera la metterò sul sito, poi sicuramente domani durante la schiena del sole la rimanderò, perché insomma comunque è necessario, insomma. E poi appunto cerchiamo di, appunto, mi piacerebbe riuscire a fare una cosa anche più puntuale, ma di questo poi ne parleremo. Un abbraccio grande, grazie ancora. La faremo in Italia fra pochissimo, allora. Sì, infatti, okay, tra l'altro. Grazie a tutti, buon pomeriggio e viva Onda Rossa sempre. Dai, un abbraccio, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.